Friuli nel mondo, 142esima trasmissione dedicata agli emigrati. La Bella Villotta 1965. A cura del Centro di Iniziative Locali si è svolta a Feletto Umberto la terza edizione della Bella Villotta dell'anno. Questa manifestazione è nata 3 anni fa dal cuore sensibile di alcuni generosi ed appassionati giovani che hanno nobilmente voluto siglare la Sagra Canora con il motto «Una serata friulana per cuori friulani». Feletto, infatti, ha voluto aprire con il pubblico friulano un dialogo canoro per avvicinarlo sempre più alla bellezza del canto popolare nostrano, per proporre la riscoperta delle migliori villotte recenti e remote, popolari e di autore, e per proclamare la Bella Villotta dell'anno. Il numeroso ed entusiasta pubblico ha designato Villotta 65 Il Gri di Cesare Augusto Seghizzi su testo di Maria Gioitti del Monaco, interpretata dal coro di Ruda, al quale è stata assegnata la targa d'oro Zebe di Giacinto. Trasmettiamo una parte della serata facendovi ascoltare dal coro Allegris Furlans di Feletto Umberto, diretto da Armando Del Fabbro, il patetico motivo Alciante il Gial, che conquistò la targa d'oro 1964. Dal coro Ciscel di Udine, diretto da Rigo Galiussi, la villotta popolare Quant Colevi Supe Ciarnie. Dal coro Costanza e Concordia di Ruda, diretto da Orlando Di Piazza, la villotta popolare dal titolo Se ti toci une manine e la serenade di primavere di Carlo Conti. Dal coro Cesare Augusto Seghizzi di Gorizia, diretto da Francesco Valentinsic, la stupenda composizione di Cecilia Seghizzi dal titolo A mi baste un fil di lune. Ed infine Il Gri, Bella Villotta 1965, nell'esecuzione del coro Costanza e Concordia di Ruda. Oh! gli dirò se il tuo moro sto, bal se lo sto, che gli al di sì, tocetto, c'è tu, di sto, tocetto, c'è tu, di sto. Se ti stringi una mano te, gli dirò se il tuo moro, se il tuo moro, non sono lì so, se ti dai una busa degli aldi rasa il tuo papà, forse tu che gli aldi si se mi sinta consola. Se per punti di diamami, io non vai, lui è se di se, lui mi busa, lui mi toce, e io gli dico, sempre di sì, sempre di sì. Lui mi busse, lui mi tolse, e io di sempre di sì. Oi la folilla, oi la folilla, o la la. La luna che fa svele in tal serene, rinchi a mont batti ogni stelle, sveiti su, sveiti mio ben. Ma noi sta e par la frutta, il bramo. Bambinote, venga giore di castincia. Slusignanta la rosate, la taviele biese in flor, vie pagnocchi indarindate, non si invide a far l'amor. Ma la frutta non usco, Ciao, ciao. cantar si distume, tanto quanto curindomi. A mi parte un fil di lume, lume la guerra è in frico, tal seren calci perché rivinite voi, perché rivinite voi. Ogni volta un fil di lume, lume. Di salate pur d'augusto la somuse prima me concerto a franco supplinato un gran san finché rive in talò zirrica di mangiare finché il cielo un birlo di salate al simplate fra gli spleis di che spleis se scomencia l'osea se frescuto mi duda si ferme tutto un po' che più so più da miella che mangia. E la fea di crodi sentì un vibrio che vo di sa me, di fa me, lui sa me, si la fea. Venghe lui, talgar lui, di che sveis, Se che io si vive Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelizzari.